Quest'anno al Festival del Cinema di Venezia saremo presenti anche noi, cioè Medici Senza Frontiere, saremo presenti il 4 settembre nella Sala Volpi alle ore 21, quando ci sarà la proiezione del cortometraggio Nottingham 2051. Diciamo è un nuovo esperimento, ma Medici Senza Frontiere è abituata alle sperimentazioni, è uno esperimento che è stato possibile grazie alla disponibilità di un giovane Alessandro Leone che ci ha contattato e ci ha detto: perché non cerchiamo di fare un cortometraggio che si rivolga ai giovani per affrontare il tema della campagna per l'accesso ai farmaci essenziali. Detto in questi termini, appunto, sembra essere una campagna estremamente ostica. In parte lo è, tradotta in parole semplici vuol dire: per quale ragione nel 2004 nel mondo ci sono 2 miliardi di persone che quando si ammalano non si possono curare. Non si possono curare perché si ammalano di malattie che sono trascurate dalla ricerca scientifica, non si possono curare perché sono persone povere. Per fare in modo che i giovani, gli studenti possano comprendere questa realtà, abbiamo detto sì, in effetti un cortometraggio potrebbe essere una cosa più vicina a loro, utilizziamo degli eroi tra virgolette della letteratura come un Robin Hood, Little John, Lady Marianne, e trasferiamo questa storia nel futuro, ma in un futuro non molto lontano, perché il 2051 tutto sommato non è alle porte, ma mancano quanti anni? 47. Quindi al Festival di Venezia sarò presente anch'io, appunto Daniela Ruffini, mi occupo dei progetti scuola, ma sono anche un'infermiera, sono stata con Medici Senza Frontiere in Angola e in Mozambico e stando in questi paesi mi sono resa conto appunto di come molto spesso per tantissime persone ammalarsi diventi un'ulteriore tragedia. Allora nel 99 è stata lanciata la campagna per l'accesso ai farmaci essenziali, per poterla lanciare abbiamo anche utilizzato il premio in denaro che ci è stato dato sempre nel 99 con il premio Nobel, e questa campagna è una campagna che descrive uno scenario, che appunto uno scenario in cui 14 milioni di persone ogni anno muoiono di malattie che potrebbero essere invece curate, ed è una campagna appunto che identifica un problema ma identifica anche le soluzioni. Dal 99 ad oggi questa campagna è riuscita ad ottenere dei successi, è riuscita a realizzare, come dire, dei successi che venivano definiti utopie. Uso questo termine perché sto pensando in modo particolare all'AIDS. Nel 2000, cioè quindi meno di 4 anni fa, il trattamento antiretrovirale per una persona affetta dalla malattia costava attorno ai $15.000-$10.000. In quell'occasione sembrava fosse improponibile diminuire il prezzo. Oggi ci ritroviamo con lo stesso trattamento che costa anche $285. È una campagna che si rivolge a diversi soggetti, si rivolge ai paesi, ai governi locali, dicendo loro: nelle vostre costituzioni si dice che il diritto alla salute è un diritto inalienabile e deve essere messo in pratica, non ci deve essere questo divario tra la realtà e la teoria. Si rivolge però anche ai paesi ricchi, dicendo: anche i paesi ricchi hanno degli obblighi nei confronti degli altri paesi. Qui si rivolge alle imprese farmaceutiche dicendo: è bene che i prezzi di alcuni farmaci possano essere ridimensionati per essere a disposizione delle persone, e si rivolge anche al pubblico in generale, perché ciascuno di noi può svolgere un ruolo. Ovviamente come responsabile dei progetti scuola non posso non approfittare di questa occasione per dire che Medici Senza Frontiere sta producendo anche del materiale che sia gradevole, del materiale che possa stimolare i ragazzi perché possano interrogarsi su quello che accade nel mondo. Per questa ragione da circa 2 anni esiste un kit didattico che si chiama "La salute è un diritto, dipende da dove vivi", questa è la prima verità che hanno scoperto gli studenti in questi 2 anni giocando il gioco di ruolo di questo kit didattico, e da quest'anno appunto abbiamo anche un nuovo libro che si chiama "Storia di uomini, donne e zanzare". In più si aggiunge appunto questo corto Nottingham 2051, del quale per scaramanzia non voglio dire nulla, ma che è un ulteriore strumento che si rivolge proprio ai giovani.